24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:21 minuti, siamo qui in diretta fino alle 9 con 24 mattino. Potete scriverci gli sms al 349-238-6666, parleremo certamente del governo Monti che nascerà o non nascerà. Questo è il dilemma, alle 8:20 ne discuteremo con il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. E poi parleremo di uno sguardo un po' all'estero, perché qua parliamo di Monti, ma in Medio Oriente si parla di possibile guerra all'Iran, che secondo voci accreditate vuole la bomba atomica. Israele non ci sta, è pronta all'attacco preventivo, un attacco non escluso neppure da Obama, dalla Gran Bretagna. Ma l'Occidente è diviso, la Russia non lo vuole. Insomma, cercheremo di capire se questa minaccia è davvero concreta o no. Questa alle 8:30. Ma andiamo per ordine, allora iniziamo da cosa? Dalla lettura dei giornali in edicola. È martedì 15 novembre e i titoli sono tutti declinati sulla vicenda Monti, nasce o no il governo, oggi è la giornata decisiva. Borsa e spread, torna la tensione, questo è il titolo del Sole 24 Ore, tra l'altro Sole 24 Ore che vi ricordo esce da oggi per un mese con allegato il libro che potete chiedere al nostro collega Roberto Galullo, il libro si intitola Vicini di Mafia. Gli altri titoli di apertura per il Corriere della Sera: Monti, un governo fino al 2013, così Repubblica, Monti, il mio governo fino al 2013. Per la Stampa, Monti, no a un governo a tempo. Il Giornale, effetto Monti, flop. Il Fatto Quotidiano, Monti, il PDL lo vuole breve e debole. Libero, già smontato, è tutto così, si declina Monti in tutte le salse. Insomma, questi alcuni dei titoli di apertura per l'Unità Giochi Pericolosi, e c'è la foto di Alfano, Gasparri e Cicchitto, dunque tre rappresentanti del Popolo della Libertà. Il Messaggero, Monti no a un governo a tempo. Vedremo altri titoli. Intanto, da dove potrebbe iniziare Monti? Beh, lo suggeriscono Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo oggi in pagina 17 del Corriere della Sera. Per la verità l'articolo inizia in prima pagina. Il titolo è: se l'Italia fosse Lombardia risparmierebbe 785 milioni. Cosa hanno fatto Stella e Rizzo? Hanno preso i parametri della Lombardia e se tutto si uniformasse per quel che riguarda le spese delle regioni, a questi parametri si risparmierebbe quella cifra. Non è vero che tutti i giudici sono schiacciati dagli arretrati, inizia così l'articolo di Rizzo e Stella. Nicola Durante, per esempio, al TAR di Salerno deve avere un mucchio di tempo libero, infatti fa anche il dirigente della regione Calabria. Due lavori, due stipendi, benefit deluxe, a partire dall'auto blu. Prova provata che nelle regioni, se Mario Monti userà le forbici, c'è da tagliare, tagliare, tagliare. Si pensi che la Campania ha più dipendenti che Lombardia, Piemonte e Liguria messi insieme, e che organici alla Lombarda permetterebbero risparmi per oltre 785 milioni. Per esempio, alcuni dati. C'è chi non arriva a 78, a 34 dipendenti ogni 100.000 abitanti, come la Lombardia, e invece c'è chi ne ha 291, come per esempio il Molise di Michele Iorio, 291 abitanti, 291 dipendenti della regione ogni 100.000 abitanti, 8 volte e mezzo di più. Oppure anche il Piemonte, 70,5 dipendenti per 100.000 abitanti, il doppio dei cugini lombardi. Insomma, il concetto è: ogni regione va per conto proprio, sui dipendenti, sui costi. Il parametro di 34 dipendenti per 100.000 abitanti potrebbe essere esteso a tutte le regioni. Questo, per esempio, è una delle proposte di Stella e Rizzo, che appunto su questo costi della politica, lo Stato e le regioni fanno delle proposte concrete per Monti. E poi, insomma, governo che forse arriva, governo che se ne va. Ieri il ministro Galan, sulla Stampa l'abbiamo trovato, che avendo perso il posto di ministro e non essendo parlamentare, ha detto in questa intervista alla Stampa: ho chiesto a mia moglie, amore, dammi un soldo per il caffè, i giornali. Galan e le nomine del buon ricordo. Sul secolo XIX, a pagina 6, Michele Anselmi racconta di nomine fatte in fretta e furia allo scadere in zona Cesarini. Nomine di alcune commissioni del cinema, commissioni che gestiscono un budget sui 27 milioni di euro l'anno. Ed ecco allora chi sono gli innominati. Una buona porzione di cinematografo, l'ineffabile trasmissione su Rai 1 di Gigi Marzullo fa il suo ingresso nelle stanze ministeriali. Ebbene sì, a partire dallo stesso Marzullo, che entra nella commissione dedicata alla promozione cinematografica ministeriale, Gigi Marzullo. Con lui anche Valerio Caprara, critico del Mattino, e Bastian Contrario a cinematografo. O Carlo Puca, giornalista politico di Panorama, e Michele Anselmi scrive qui, davvero ci si chiede perché, forse Galeotta pare fu un'intervista al ministro Galan. Oppure Ivo Rapa, nessuno nell'ambiente del cinema sa chi sia. E ancora rimangono nella commissione Anselma Dell'Oglio, che è critica di cinematografo ufficiale e anche la moglie di Giuliano Ferrara, Carlo Cozzi, che è già critico del Secolo d'Italia. Ma la ciliegina della torta si chiama Valeria Licastro Scardino, che fu segretaria particolare di Fedele Confaloniere negli anni 90, condivise con Aldo Branchero una controversa storia di 300 milioni pagati al ministro Francesco De Lorenzo per alcuni spot sull'AIDS, ed è attualmente la moglie dell'ex deputato forzista Antonio Martuscello. Dice Michele Anselmi, nota anche per essere una delle animatrici delle notti romane. Tutti ricordano la festa all'Hotel Majestic a Roma, 130 invitati di lusso, tra i quali il ministro Galan, Carlo Lossella e Bruno Vespa. Insomma, Galan e le nomine del buon ricordo, raffica di incarichi prima di lasciare. Ci sono anche le mogli di Ferrara e Martuscello, così il Secolo XIX a pagina 6. 24 mattino. Eccoci alle 7:35 minuti. Oggi è la giornata decisiva per capire se questo governo Monti nascerà oppure no, perché finiscono le consultazioni con i partiti anche più importanti, il Popolo della Libertà e il Partito Democratico, e Monti ieri ha già detto qualche cosa, ha detto per esempio che ci saranno sacrifici ma non lacrime e sangue, e per la tenuta del governo ha detto sostanzialmente che vuole durare fino al 2013, dunque non un mandato a termine, e che vuole anche ministri politici. Questi sono gli auspici di Monti. Il problema è che sia il Popolo della Libertà che il Partito Democratico, per esempio, ministri politici non li vogliono, e quindi eccolo qui il nodo. Politici in squadra, conta l'appoggio. Questo è il titolo di pagina 7 del Sole 24 Ore, con Lina Palmerini che racconta la cronaca delle consultazioni che tra l'altro sono, a detta di tutti, molto scrupolose, nelle quali il professor Monti ascolta, prende appunti, dialoga. Addirittura La Stampa ci fa, con Fabio Martini, un'intera pagina, pagina 5, proprio sulla tecnica che utilizza Monti nelle consultazioni, il professore col quadernone. Le consultazioni cambiano rito, c'è qualcosa di nuovo, anzi di antico, nell'andirivieni di delegazioni di partiti, partitini, microgruppi che entrano ed escono nello studio del senatore a vita Mario Monti. Lui fa sempre una breve premessa, poi si siede e ascolta i suoi interlocutori, prende appunti su un grosso block notes formato A4. Insieme a lui e ai partiti che incontra c'è un'unica presenza, il verbalizzatore, colui che prende appunti. Anche il professore però lo fa, questo per rispondere all'impronta ai suoi interlocutori. Sta di fatto che nei racconti informali di chi esce dagli incontri la storia del quadernone contribuisce a delineare meglio la fisionomia del personaggio, proprio da professore universitario. Tra l'altro queste consultazioni continuano anche nel colore, racconta Massimo Gramellini nel suo Buongiorno sulla Stampa intitolato 21. Fra le ragioni per cui il governo spreadsidenziale di Mario Monti non è ancora riuscito a entusiasmare i mercati va annoverato lo spettacolo incomprensibile offerto dalle consultazioni dei 21 partiti presenti in Parlamento. Fare Italia, Liberal Democratici, Liberali per l'Italia, Repubblicani Azionisti, Noi Sud, Io Sud, Forza Sud, Popolo e Territorio, Coesione Nazionale, Alto Atesini, Valdostani, Socialisti, Repubblicani, Radicali, qualche altro manipolo di coraggiosi miracolosamente scampati alla mannaia del bipolarismo. Alle ultime elezioni gli italiani mandarono in Parlamento 5 partiti. Come abbiano fatto in appena 3 anni e mezzo a diventare 21 è un mistero per gli osservatori stranieri, ma non per noi. Bastava guardare le facce di chi, dopo l'incontro con Monti, andava a rosolarsi al sole delle telecamere per leggere la sua bella dichiarazione. Arturo Iannacone, che ha fondato un partito la settimana scorsa, appena in tempo per le consultazioni, ha perfino chiesto ai giornalisti se c'erano domande per lui. E poiché non ce n'era nessuna, se n'è andato sorpreso. Si sente un leader, ha perfettamente capito che in Italia conviene di più essere il numero uno di un monolocale che il numero due di un grattacielo. Insomma, 21 partiti delle consultazioni di Monti. Tra l'altro, per rimanere proprio sulla stampa, anche Iena ironizza molto sulla sua voglia, sul suo desiderio di rimanere fino al 2013. Monti, manco ha cominciato che già vuole durare? Diciamo che il nodo comunque è qui, è politico. Francesco Bei, nel suo retroscena su Repubblica, pagina 3, racconta di come lo stallo sia totale su questo tema e per questo ieri Monti ha chiesto aiuto a Napolitano nella speranza di superare questo stallo, convincere i due azionisti di maggioranza, vale a dire PDL e PD, a concedere qualche credito in più. Così è partita l'ultima ambasciata del Colle, affidata alla discrezione del segretario generale Donato Marra, plenipotenziario di Napolitano, che ha parlato sia con Alfano sia con Enrico Letta dei due partiti per provare a capire fino a che punto il veto all'ingresso di politici nella squadra fosse definitivo. La risposta: niente da fare. Dunque pare che si tenga duro su questo tema. Monti vuole i politici in squadra, PDL e PD no. Vedremo se si riuscirà a smussare quest'angolo nelle consultazioni oggi con questi due partiti tra gli altri, altrimenti insomma il rischio c'è, perché Monti dice: io voglio un governo legittimato. Sappiate che Monti è il governo, primo ministro in pectore, cioè non ha ancora sciolto la riserva, e quindi oggi, finite le consultazioni, dovrebbe tornare dal capo dello Stato Napolitano a dire: le mie conclusioni sono queste, c'è possibilità di andare avanti oppure no, non accetto l'incarico. E guardate che nulla è dato per scontato. Tanto dura poco, questo è il titolo dell'intervista che Luca Telese sul Fatto Quotidiano fa al ministro uscente della difesa Ignazio La Russa. Il nostro parere deve contare, patti chiari, amicizia lunga. Così Ignazio La Russa risponde, facendo capire che insomma nulla appunto è scontato. Io non metto un limite perentorio al governo, ma penso che una volta superata l'emergenza sarebbe opportuno andare subito a votare. Ci si riesce a maggio, sarà necessario farlo a giugno, l'importante è che si faccia presto. Questo è un altro tema importante. Il PDL vuole, come anche l'Italia dei Valori per esempio, che il governo Monti, l'eventuale governo Monti, faccia poche cose e poi si vada a votare in pochi mesi. Tra l'altro, appunto, Antonio Di Pietro sarà nostro ospite alle 8:20, vedremo la posizione dell'Italia dei Valori. Intanto continuano i totoministri, cioè imperterriti, i giornali vanno avanti come se lo stallo non ci fosse. Eccoli qui i nomi che continuano, sono i soliti, non c'è grandi ingressi da far notare rispetto ai nomi che già circolano in questi giorni. Sì, forse per la Farnesina viene dato dal Corriere della Sera l'ex ambasciatore negli Stati Uniti Giovanni Castellaneta, oppure Ferdinando Salleo, anche lui è un ex ambasciatore negli Stati Uniti, ma insomma i nomi che circolano sono sempre quelli. Mentre Libero va a fare le pulci al patrimonio di Mario Monti, lo fa con il suo vice direttore Franco Bechis in prima pagina. Il professore ha investito tutto nel mattone, si ricorda un po' tutte le varie sue posizioni nel consiglio di amministrazione della Girardini, di Fidis, Fiat, Banca Commerciale Italiana, Rizzoli, IBM Italia, alcuni dei consigli di amministrazione. Ricorda Franco Bechis quando Vincenzo Visco fece mettere online i redditi di tutti gli italiani, la dichiarazione del 2006 di Monti era un reddito imponibile di 367.992 euro, pagava un'imposta netta di 146.601 euro, aveva un reddito d'impresa da 38.665 euro, sua moglie invece dichiarava un reddito di 19.196 euro. E ancora ha soprattutto appartamenti. In una commandita semplice, la Mirte 7 SAS, lui stesso lo aveva costituito con la moglie Elsa, è stata poi sciolta senza essere messa in liquidazione nel 2002, assegnando ai soci gli immobili posseduti. La società aveva a Milano un appartamento in via Frauda, 10 vani con box auto, con rendita catastale complessiva di 2.600 euro. A Varese invece due appartamenti da 5,5 vani al primo e al quarto piano in via Cimabue, entrambi con box auto. E vabbè, insomma, se volete sapere tutto il patrimonio immobiliare di Monti, qualche appartamento, in nome della trasparenza, libero, pubblica, pubblica tutto. Intanto chi tiene la linea dura è la Lega, che dice anche riapriremo il Parlamento padano il 4 dicembre. Tra l'altro c'è un retroscena legato alla Lega. Rodolfo Sala su Repubblica: Tremonti ci ha chiesto la tessera della Lega, ma c'è il no dei colonnelli. Insomma, era il PDLino più amato dai leghisti, un po' anche questo si deve alla cordiale antipatia coltivata nel partitone azzurro nei confronti di Giulio Tremonti, ma adesso che è crollato tutto, lo molla anche il carroccio. Secondo quanto c'è in questo retroscena nella segreteria federale della Lega ieri, Bossi ha detto: Tremonti mi ha chiesto di entrare nella Lega, cosa ne pensate? Sguardi con gli occhi sgranati di Maroni, Reguzzoni, Calderoli, Cota, non se ne parla nemmeno, se vuole entrare entri come socio ordinario. Insomma, secondo questo articolo Tremonti sarebbe stato anche scaricato dalla Lega. Che cosa invece vuol fare e potrebbe fare Monti se riuscisse a insediarsi? Racconta Dino Pesole sul Sole 24 Ore. Ecco i numeri sul tavolo di Monti. Rigore, crescita ed equità, ecco il sentiero del presidente del Consiglio incaricato Mario Monti. Così si appresta a delineare una nuova manovra con calcoli tuttora in corso, ma tuttavia dalle prime simulazioni emerge una correzione di un punto di PIL, 16 miliardi, per colmare lo scarto dello 0,7% tra la nuova stima di deficit 2012 prevista da Bruxelles, vale a dire il 2,3%, e quella del governo uscente, 1,6%. A questa andrà aggiunti 4 miliardi attesi dalla riforma fiscale assistenziale e il tutto potrebbe salire a una manovra fino a 24 miliardi per compensare l'aumento della spesa. Come trovare questi soldi? Beh, la reintroduzione dell'ICI pare abbastanza un percorso certo e questa porterebbe 3,5 miliardi di euro. Poi le misure della patrimoniale, che si torna a discutere di questo, sui beni immobili e mobiliari. E poi un giro di vite sull'evasione fiscale, soprattutto migliorando la tracciabilità dei pagamenti. Questi, secondo Dino Pesole, secondo il Sole 24 Ore, pagina 12, Sole 24 Ore, che continua con la dicitura «fate presto», le misure che potrebbe fare Mario Monti. Ce n'è un'altra sulle pensioni, anticipata da Repubblica. E allora sulle pensioni, Repubblica, pagina 9, spunta un piano, età obbligata a 62 anni e un bonus per chi lascia il lavoro dopo i 65. Scrive Luisa Grion che sono tre diversi modi per intendere una stretta sulle pensioni che sarebbe in mente di un eventuale governo Monti, quindi tutte ipotesi, ma insomma ci si esercita su questo. La prima strada potrebbe convincere anche il PD, è messa a punto da Tito Boeri e Agar Brugiavini, due economisti della Voce.info, e introduce un mix di penalizzazioni e premi a seconda del momento in cui il lavoratore sceglie di lasciare il posto. L'intervallo per farlo andrebbe da un minimo di 62 fino a un massimo di 70 anni, con una deadline fissata al 65esimo anno di età. Chi decide di ritirarsi dal lavoro prima dei 65 farà i conti con un taglio dell'assegno previdenziale, chi invece lavora dai 66 in su potrebbe godere di un mini bonus. Questa è la prima proposta. Poi se ne contrappongono a queste ipotesi altre due. La prima prevede l'anticipo dal 2013 al 2012 di quota 97, la somma a cui si arriva mettendo insieme l'età anagrafica e l'età contributiva minima. L'anno successivo, nel 2013, si arriva a 98, nel 2014 al 99, per approdare al tetto 100 dal 2015. Infine, la terza via intende superare del tutto il sistema delle quote, vincolando a un requisito anagrafico, vale a dire i 60 anni di età compiuti, anche i pensionamenti di anzianità di chi ha accumulato 40 anni di contributi. Staremo a vedere. Intanto, cari ascoltatori, sappiate che tutto il mondo è paese. Voi pensate di avere la casta in Italia, in Francia hanno la casta, che non è il Letizia Casta, ma è proprio la casta dei politici, non so come si dice, ma la stampa fa sapere che anche i deputati francesi hanno votato contro un taglio dei propri stipendi. L'eroe, in questo caso anticasta, sempre che non è Letizia, per la stampa è il deputato Lionel Luca, che aveva proposto di tagliare il 10% degli stipendi dei parlamentari, che si aggirano sui 5.200 euro al mese in Francia, ma anche il suo partito gli è andato contro, e quindi nessun taglio ai politici francesi. Io trovo tutto abbastanza scontato. Potessimo chiedere a voi commercialisti, se aveste un organismo, vi tagliereste del 10% gli stipendi? No, così ai giornalisti, così ai dentisti, così agli idraulici e così anche agli alpini come il nostro Peter Bescapè. Noi parleremo anche di Iran, ve lo ricordo, alle 8.30, e della possibile attacco preventivo per impedire che Teheran costituisca e costruisca ordigni nucleari. Questo è il timore portato avanti soprattutto da Israele, ma non escluso dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti. E noi alle 8.30 vorremmo capire qualcosa di più di questo timore, se è concreto oppure no. Ma vi voglio segnalare questo incredibile caso di cronaca giudiziaria che Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera racconta, pagina 23 del Corriere, per l'appunto. Errori nella trascrizione e l'audio fa cadere l'accusa. L'innocua frase «adesso chiamo Luca Tronconi» è diventata chissà come «rischiamo un po' troppo». E sempre nella trascrizione delle intercettazioni fatta dal perito del Tribunale di Pavia su un caso di supposta corruzione elettorale di 'Ndrangheta, la frase «ho contato i suoi voti» è stata malintesa con «ho comprato i due voti». Secondo i giudici, con un certo aplomb, c'è qualche differenza di non poco conto tra quanto riportato dal perito e quanto sostenuto dalla difesa. In realtà discrepanze risolte da giudici Beretta, Riganti, Balduzzi con l'ascolto diretto dell'audio, fino a concludere che l'interpretazione decisamente più corretta è quella della difesa, e per questo sono stati assolti dall'accusa di voto di scambio dell'ex direttore sanitario dell'ASL di Pavia, Carlo Chiriaco, e l'ex assessore comunale PDL al commercio, Pietro Trivi, che erano stati arrestati nel blitz infinito istruito dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini e dai PM Alessandra Dolci e Paolo Storari. C'è da dire che, racconta Ferrarella, Milano è in corso il processo principale, sempre a Chiriaco, per concorso esterno in associazione mafiosa, ma questo processo a Pavia, nel quale si chiedevano 2 anni per Chiriaco e Trivi, accusati di aver dato 2.000 euro a un infermiere sindacalista dell'ospedale San Matteo per ottenere il suo voto, appunto nelle comunali a Pavia, è caduto grazie a questo incredibile errore, abbastanza inspiegabile errore, voglio ripetere. La frase «ho contato i suoi voti» vera è stata invece messa dal perito «ho comprato i due voti», e così anche questa innocua frase «adesso chiamo Luca Tronconi» è diventata nelle trascrizioni un incredibile «rischiamo un po' troppo». Ebbene, errori nella trascrizione e l'audio fa cadere l'accusa. I voti contati erano diventati voti comprati. Così sul Corriere della Sera, racconta Luigi Ferrarella. C'è crisi, non c'è crisi. In Rai, dove ieri ho visto uno straordinario Fiorello, tra l'altro, che è rientrato, in Rai invece non c'è crisi per Bobo Vieri. Voglio concludere così per farvi allegri. Pare che, e Libero ne scrive in prima pagina con Selvaggia Lucarelli, la Rai è pronta a sborsare per avere A Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che partirà il 7 gennaio prossimo, Bobo Vieri. Sapete quanto daranno a Vieri per ballare? 800.000 euro per ingaggiarlo. Così scrive Libero, la Rai copre d'oro Vieri. C'è crisi, ma non per tutti. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, Mario Monti ce la farà ad ottenere l'appoggio dalla politica, dai partiti, senza il cui appoggio, ha detto, non posso neanche pensare di accettare questo incarico. Ne parliamo intanto con un leader di partito che ieri ha incontrato Mario Monti nel giro delle consultazioni. Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, buongiorno Di Pietro. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Senta, uno dei nodi di Monti è voglio anche i politici, adesso al di là di nomi o non nomi, voi precludete la possibilità che dei politici possano far parte di un eventuale esecutivo Monti? In realtà il candidato premier Monti non è che ha detto voglio i politici al governo, voglio che la politica e soprattutto i gruppi parlamentari possano appoggiare il mio sforzo affinché un governo ci sia che possa rispondere alle esigenze economiche che ci chiede l'Unione Europea e alla ripresa di credibilità delle nostre istituzioni. Per quanto riguarda noi dell'Italia dei Valori, gli abbiamo detto che certamente meglio Monti che Berlusconi al governo per presentarci in Europa, ma che nel merito vogliamo vedere quali provvedimenti pone in essere, perché non è che una coltellata se te la dà una persona amica sente un dolore diverso da una coltellata dentro una persona avversaria. Ma detto questo, noi vogliamo consentire che il governo Monti si installi affinché si passi da questa fase di confusione e si ritorna a una fase di dialogo con l'Unione Europea. Però la prima fiducia sarà sulla composizione, già sulla composizione, cioè se ci fossero dei politici, questo è un problema per l'Italia dei Valori o no? Ma dipende, vede, così come tutti gli economisti, così come tutti i giornalisti, così come tutti i politici, non sono tutti uguali. Dipende da chi si mette, non lo so. L'ex ministro dell'agricoltura Romano era un ministro ed era un politico. Ed è un politico. Io personalmente lo vedrei uno schiaffo alla buona creanza, ma per farle un esempio, dipende. Personalmente noi dell'Italia dei Valori, torno a ripetere, riteniamo che sia necessario sapere chi compone la squadra e qual è il programma, in quanto tempo intende realizzarlo. Gliene abbiamo fatto espressa richiesta ieri, lui ci ha detto che in occasione della richiesta di fiducia si esprimerà in modo chiaro e preciso, e noi gli abbiamo detto che con una fiduciosa attesa, perché vogliamo che ci sia un governo e che in questo momento, certamente prima di andare alle elezioni, c'è bisogno di una nuova legge elettorale che vorremmo facesse il Parlamento, ma pensiamo che non lo faccia. Per questa ragione abbiamo raccolto le firme del referendum che porterà gli elettori da qui a qualche mese a fare un referendum se vogliono cambiare la legge elettorale. Da qui c'è anche l'idea della fiducia con riserva, cioè voi attendete di capire che cosa vi proporrà, ecco, Monti nel caso. Ma noi non è che abbiamo una riserva sulla persona, però Monti è una persona per bene, competente, capace, professionalmente attrezzata, su cui anche bisogna eliminare tutte queste figure che, siccome ha fatto il consulente di una certa banca, quindi difende il mondo dei banchieri. Se un avvocato fa il difensore di un assassino, non è che diventa assassino pure l'avvocato. Quindi voglio dire, noi vorremmo, credo che in democrazia si usa così. Primo, quando cade un governo in una situazione normale bisogna tornare alle elezioni affinché siano gli elettori a sceglierlo. Quindi questa idea che la Romania sia la nostra richiesta di andare al più presto alle elezioni è una idea un po' non corretta. Certamente noi abbiamo fatto questo referendum perché vogliamo che si vada alle elezioni con una nuova legge elettorale. Nel frattempo e nell'emergenza, piuttosto che lasciare un vuoto di governo o un governo ancora in mano al governo Berlusconi, ci auguriamo, anzi certamente già l'idea stessa che un ex commissario europeo che per 10 anni conosce a menadito, poi le dirò una parola che mi ha detto proprio il presidente Napolitano al riguardo, è meglio, anzi glielo dico subito, il presidente Napolitano quando mi ha presentato, siamo andati da lui e ci ha presentato la candidatura di Monti, ha detto testualmente queste parole: vede Di Pietro, se Monti dovesse diventare Presidente del Consiglio, domani mattina so chi va in Europa a parlare con i nostri partner e so che è una persona che conoscono, che apprezzano, che stimano, e nello stesso tempo Monti sa a chi rivolgersi perché quel mestiere in Europa l'ha già fatto per 10 anni. Insomma, l'Europa la conosce, però Monti ha detto un'altra cosa, che è un altro nodo politico importante: voglio rimanere, nel senso se nasce questo governo, fino al 2013. Cioè questa idea di alcuni partiti che gli vogliono appioppare la data di scadenza come una mozzarella, lei che ne pensa? Ma vede, che Monti voglia avere più tempo possibile per poter portare l'Italia fuori dal guado è comprensibile, ma se dovessimo accettare l'idea a priori che dobbiamo aspettare che rimetta a posto l'Italia, dovremmo nominarlo non senatore a vita ma forse primo ministro a vita, al di là delle battute, io credo che sia legittima questa sua richiesta e non vorrei che la battuta adesso passi come comunicazione e non invece la mia affermazione principale. È legittima la sua richiesta, altrettanto legittima, se permette, è la nostra presa di posizione, quella dell'Italia dei Valori, e cioè che posto che l'emergenza durerà non poco e posto che in un sistema bipolare, in un paese democratico, quando un governo e un Parlamento vengono sfiduciati, sono i cittadini italiani che eleggono un nuovo Parlamento, un nuovo programma, e che non si commissaria il paese, e posto che c'è un referendum che stabilisce una nuova legge elettorale, alla fine del referendum avremmo una legge elettorale diversa dal Parlamento che è stata eletta con una legge elettorale. E a quel punto si può andare a votare, secondo noi? Noi chiediamo che a quel punto ci siano le elezioni. Ma quanto, questo non vuol dire mesi? Porre un limite a Monti, no, vuol dire però che il Parlamento si deve impegnare a o cambiare legge elettorale o a riconoscere che non è più idoneo a rappresentare il popolo perché c'è un'altra legge elettorale che lo vuole. Ma lei ha un'idea di tempo, non so, 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, perché poi mettere adesso un tempo a priori e dargli una scadenza, una cambiare, mi sembra già di per sé indebolirlo, ma nello stesso tempo prevedere che debba stare fino a quando non metta a posto i conti del paese mi sembra indebolire la democrazia. Io ritengo che alle elezioni si debba andare al più presto con un governo eletto dal popolo che si assuma la responsabilità davanti ai cittadini italiani che individuano: questo è il programma, questa è la classe politica di cui mi fido. Oggi come oggi, in questo vuoto di governo, di potere, è meglio che ci siano dei tecnici e che inizi una legislatura. Altra cosa totalmente diversa se poi nei singoli provvedimenti gli diamo la fiducia, perché io ritorno a ripetere, sì, ad oggi né lei né io sappiamo qual è il provvedimento che fa Monti. Io gliel'ho detto Monti. Certo, infatti, per esempio, cosa non dovrebbe fare secondo lei? No, lei ha detto alcune cose sono da macelleria sociale, quelle che ci chiede l'Europa, che certo, cosa e che cosa non vuole che faccia. Io le dirò di più, a Monti ho detto non tanto ciò che non deve fare ma ciò che deve fare, perché da forza politica responsabile che dopo aver mandato a casa il governo Berlusconi, contribuito a mandare a casa il governo Berlusconi, e mi si darà atto che l'Italia dei Valori sotto questo aspetto l'opposizione l'ha fatta dura e pura, oggi vuole costruire e ricostruire dalla macerie alternative. Io ho detto la prima cosa che devi fare non è quella di legge lacrime e sangue, e lui ha già detto che non lo vuole fare, ma devi fare una legge del buon esempio dove non metti niente che devi chiedere ai cittadini, lo fai anche con decreto legge, ma devi fare applicare a alla casta, alla cricca, alla politica, a tutti coloro che ad oggi non hanno fatto il loro dovere o ad oggi hanno usufruito di privilegi, applicare il conto, il rendiconto del danno provocato, ad esempio eliminare tutte i privilegi che esistono nella politica, eliminare i costi della politica e applicare un contributo di solidarietà agli scudati fiscali, rilanciare fortissimamente una lotta all'evasione fiscale, eccetera. Cioè voglio dire, non puoi chiedere al cittadino normale un qualcosa se prima non prima l'ha chiesto la politica. Senta Di Pietro, per concludere, vede come cambiano i tempi in due giorni? Ha fatto un'intervista, non ha neanche nominato Berlusconi per 10 minuti. E non intendo farlo. Neanche perché... sulla questione del gesto che ha fatto, che le ha detto non era dell'ombrello, ma... No, assolutamente, ma non lo era, e quel giorno è finito il governo Berlusconi. Adesso la politica è cambiata totalmente tutto, qui non esiste più adesso la destra, il centro, la sinistra, gli attuali partiti sono già passati alla storia, chi vuole guardare al futuro deve pensare a come ricostruire il paese. Se continuiamo a dire ma quello ha fatto, ma quello ha detto, ma all'epoca di Berlusconi, ma all'epoca di Prodi, quant'altro, non ne veniamo più da capo. Questo è il dato di fatto, un paese sull'orlo del default, del fallimento. Chi si vuole assumere la responsabilità di ricostruirlo deve farlo. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto già opposizione, oggi vogliamo fare ricostruzione. Ma quindi non teme colpi di coda del caimano? No. Guardi, questo fa parte della fisiologia della dialettica. Io personalmente credo, da questo momento in poi, dopo che ho detto che quello non andava bene, devo cercare di dimostrare che possiamo fare meglio. Va bene, la ringrazio, buona giornata ovviamente. A lei, tante cose. Ad Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, noi ci fermiamo per la pubblicità e il meteo e poi... andiamo a capire che cosa succede in Iran. Ebbene sì, cari ascoltatori, perché qua ci concentriamo su Monti, ma in Iran c'è il timore che Teheran voglia costruire la bomba atomica. Sono timori fondati oppure no? C'è Israele che ha già forse programmato, qualcuno dice entro Natale, entro l'inizio del 2012, un attacco preventivo all'Iran. Insomma, noi non ce ne stiamo accorgendo, ma che sta succedendo? La rischiamo... E rischiamo una guerra, rischiamo che arriva, per ora ci arriva l'eco di una possibile guerra in Medio Oriente. Sarebbe una guerra, certo, con tante conseguenze. 24 mattino. Allora, il presidente americano Obama non ha escluso l'opzione militare, anche se preferisce ovviamente la diplomazia, nei confronti dell'Iran. Così la Gran Bretagna. Insomma, che cosa sta succedendo? Davvero Teheran sta cercando di dotarsi degli ordigni atomici? E davvero Israele potrebbe andare avanti con il blitz militare preventivo minacciato? Ne vogliamo discutere intanto con il nostro Alberto Negri, inviato Le Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Profondo conoscitore del Medio Oriente, dell'Iran anche e in particolare. Saluto invece, siamo collegati con Gerusalemme, il portavoce del governo israeliano, parla un ottimo italiano grazie anche al fatto di essere stato ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, Avi Patzner. Ambasciatore Patzner, buongiorno. Buongiorno. Senta, è davvero un rischio concreto o è una minaccia solo a parole quella dello Stato di Israele di fare attacchi in Iran nelle centrali nucleari? Bene, tutto dipende da ciò che la comunità internazionale farà. Noi preferiamo ovviamente la diplomazia e crediamo che ora si deve porre delle sanzioni molto forti contro l'Iran, sanzioni che facciano capire all'Iran che non può andare avanti con il suo programma di costruire una bomba nucleare. Quelle devono essere delle sanzioni che realmente fanno male, delle sanzioni finanziarie, delle sanzioni sull'importo del petrolio raffinato, delle cose che gli iraniani sentono. E se tutto questo se la comunità internazionale non vuole o non può porre delle sanzioni, come ho detto, evidentemente, come ha detto il presidente Obama, tutte le opzioni sono sulla tavola. Senta, ma addirittura qualcuno dice che c'è una data entro la fine dell'anno o gennaio come deadline per la quale lo Stato di Israele dice o ci sono queste sanzioni che lei ci ha detto oppure noi procediamo anche militarmente. Noi non abbiamo messo un deadline, però è evidente che non abbiamo molto tempo. Già abbiamo perso anni e anni e anni, quanto tutti ci dicevano a noi, non vuoi Israele non sapete realmente ciò che succede in Iran e forse loro non stanno costruendo una bomba atomica. E poi adesso è venuto la settimana scorsa il rapporto dell'Organizzazione Nucleare Internazionale che dice ciò che noi abbiamo detto tutti gli anni, che c'è un pericolo reale che l'Iran sta costruendo una bomba atomica e minacciando non soltanto Israele, però tutta la regione. E allora evidentemente abbiamo già perso anni e anni, non possiamo perdere altri anni. Allora, questo è un punto molto chiaro. Alberto Negri, devi aiutarci a capire, nessuno sa decisamente e in maniera precisa che cosa sta succedendo e cosa stia succedendo sul programma nucleare in Iran. Però la domanda è legittima, ma davvero Teheran si sta dotando dell'arma nucleare, come anche il rapporto effettivamente l'Agenzia Atomica Internazionale ha detto attenzione, perché forse Teheran procede proprio in quella linea. E allora, Alberto? Ma mi sembra che il rapporto della IEA non sia proprio un grande scoop giornalistico, in fondo che l'Iran potesse o stesse lavorando a un programma anche militare era già evidente qualche anno fa, quando nascose alla comunità internazionale i laboratori di Natanz e quello che si faceva allora già nel 2002-2003. Quindi era già da tempo che si pensava a questo e anzi in un certo senso l'Iran il suo scopo l'ha ottenuto, perché viene trattato come se fosse già una minaccia militare e come se avesse già una sorta di bomba atomica virtuale o potenziale. Quello che sta accadendo oggi, e qui c'è una deadline vera, il 31 dicembre gli americani si ritirano dall'Iraq, è in corso un riposizionamento militare e diplomatico nella regione, c'è una sorta di great game nel Golfo, di grande gioco, che ha come obiettivo l'isolamento da una parte dell'Iran e dall'altra della Siria. Questo ritiro americano in qualche modo deve essere accompagnato da pressioni diplomatiche e anche di stampo diplomatico-militare, si sta creando una sorta di alleanza insomma in questo Golfo tra gli Stati Uniti, le monarchie del Golfo eccetera, per cercare di tenere l'Iran isolato, perché come diceva giustamente l'ambasciatore Pazner, la bomba atomica non fa paura soltanto a Israele, ma fa paura un po' a tutti gli stati della regione. Questo sicuramente, però come valuti tu questo atteggiamento dello Stato israeliano a dire, cioè attenzione, o prendete le necessarie contromisure oppure l'opzione militare è sul campo, cioè converrebbe questa escalation militare a tutti? Ma innanzitutto un'azione militare israeliana nei confronti dell'Iran dovrebbe giocare anche un po' sul fattore sorpresa, che mi sembra a questo punto non ci sia più tanto. Si è parlato molte volte della cosiddetta opzione Usirak in riferimento all'azione militare che fecero gli israeliani nell'81 bombardando il reattore nucleare iracheno di Saddam Hussein. Ma allora quella fu un'operazione condotta, mi sembra, da un piccolo gruppo di cacciabombardieri. Oggi un'operazione militare israeliana nei confronti dell'Iran avrebbe bisogno di ben altro, perché qui si tratta di affrontare non soltanto molteplici obiettivi nucleari, ma anche di affrontare le difese radar, missilistiche, insomma si tratterebbe di una vera e propria guerra più che di un'operazione militare. Più che un'operazione lampo, diciamo. Effettivamente questi sono i dubbi, ma tra l'altro ci sono anche altri dubbi che voglio girare all'ambasciatore Avi Pazner, però dopo le informazioni sul traffico, dunque tra un minuto, perché molti ascoltatori ci chiedono questa domanda, la pongono in maniera molto precisa: perché se Israele ha un programma nucleare non lo può avere anche l'Iran? Allora, l'Iran, l'opzione nucleare, l'opzione militare, il rischio del nucleare, io la mia risposta personale a chi dice l'Iran e Israele perché entrambi non smettono di avere i programmi nucleari, io non vi sfugga questa non sottile differenza, non ho mai sentito un leader israeliano dire che l'Iran non ha diritto a esistere sulla faccia della terra, mentre si sente un giorno sì e un giorno no Ahmadinejad dire che Israele invece dovrebbe essere cancellata dalla faccia della terra. Questo credo faccia una piccola differenza, ma la mia risposta non è quella che conta. Ambasciatore Pazner, lei che risponde a chi dice anche Israele al nucleare? Allora, Israele ha mai ammesso che abbiamo l'arma nucleare, abbiamo sempre detto che non saremo i primi a introdurre le armi nucleari nel Medio Oriente, e lei ha ragione che non si può paragonare Israele e Iran. E Israele no, non minaccia a nessuno. E invece uno deve vedere la natura del regime iraniano, che è un regime autocratico, dittatoriale, islamico, estremista, pericoloso, ancora una volta non soltanto per Israele, per tutti i paesi accanto dell'Iran, per i paesi del Golfo, per i paesi del Medio Oriente, e soprattutto l'Iran ha dichiarato pubblicamente dalla bocca del presidente Ahmadinejad che vuole distruggere Israele, che vuole cancellare della faccia del Medio Oriente lo Stato di Israele. E allora è evidente che se acquiere una arma nucleare lo farebbe, perché uno deve credere a ciò che dicono gli iraniani, come l'Europa aveva dovuto credere negli anni 30 a ciò che diceva Hitler, che voleva distruggere il popolo ebraico. Uno deve creare ciò che dice Ahmadinejad, che vuole distruggere Israele. Però su questo mi faccia fare con Alberto Negri l'avvocato del diavolo a questo punto. Alberto, tu conosci molto bene il regime iraniano. Davvero dobbiamo dire, siccome Ahmadinejad dice, e lo ha detto più volte, Israele va cancellato dalla faccia della terra, che non possiamo mai fidarci a mettergli in mano un eventuale programma nucleare con armi atomiche? Sì, poi bisognerebbe anche chiedersi perché l'Iran vuole questa bomba. Qual è l'obiettivo degli iraniani? L'obiettivo degli iraniani va insomma rintracciato nella storia di questi ultimi 30 anni del Medio Oriente. Insomma, gli iraniani vorrebbero una bomba o una bomba potenziale per non farsi attaccare, in poche parole, per cercare di avere una sorta di assicurazione di non essere attaccati o da Israele o dagli Stati Uniti. Abbiamo visto che gli Stati Uniti hanno attaccato Saddam, hanno occupato, si ritireranno tra poco, dopo 8 anni e mezzo, hanno fatto crollare un regime. No? In più ci sono considerazioni più profonde di natura politico e militare. Gli iraniani hanno affrontato una guerra con 1 milione di morti contro l'Iraq, sanno benissimo che in caso di un altro conflitto non si possono permettere, forse non avrebbero la stessa capacità di mobilitazione militare e di sacrificio, quindi la bomba nucleare potrebbe in qualche modo servire ad allontanare il pericolo di un altro conflitto. Quindi in fase, diciamo, difensiva. Però certo non aiutano queste dichiarazioni di Ahmadinejad, perché se uno dice voglio distruggere Israele e poi cerco la bomba atomica, uno fa uno più uno, dice questo, se ha la bomba atomica cosa fa? La usa, non è che la usa come arma difensiva. Ma non c'è dubbio, anche perché lo scopo degli iraniani di questa bomba è uno scopo anche diplomatico e di in qualche modo destabilizzazione del Medio Oriente. L'Iran è lo sponsor della Siria, degli Hezbollah. Sì, sì. Avere la bomba in qualche modo sembra, è in qualche modo garantire anche la sopravvivenza di questo fronte, no? Di questo fronte sciita, che in qualche modo costituisce una spina nel fianco non solo per Israele, ricordiamo la guerra del 2006 nel Libano contro gli Hezbollah, ma anche nei confronti della Siria, che è un alleato storico, no? Ed è l'altro punto chiave di questa situazione in qualche modo. Pensate, se cambiasse il regime di Assad a Damasco, cosa potrebbe accadere, quale colpo durissimo potrebbe costituire anche per l'Iran. Tra l'altro, Alberto, una notizia che forse è passata in secondo piano, ma noi che siamo anche al Sole 24 Ore lo sappiamo: ieri è arrivato attraverso Dubai, è arrivato a Teheran uno degli imprenditori italiani più importanti, sì, no? Mario Moretti Polegrato, presidente della Geox, che in piena tempesta, diciamo, sulle questioni nucleari ha detto: siamo qui perché bisogna avere fiducia, noi imprenditori, fare affari con l'Iran. Allora chiedo a te e poi all'ambasciatore Pazner, perché c'è questo aspetto nell'aspetto, si può e si deve fare affari con l'Iran, Alberto? Questo è il problema nodale della questione, cioè In realtà le pressioni che vediamo adesso esercitare da parte degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, le dichiarazioni che vengono da Israele hanno un obiettivo che è immediato, quello cioè di rafforzare le sanzioni contro l'Iran. Ebbene, qui abbiamo un'opposizione forte. Obama già ieri all'APEC si è un po' scontrato sia con la Russia che con la Cina. I russi in particolare non vogliono imporre altre sanzioni all'Iran e dopo la questione della Libia si sono anche inalberati per le pressioni sulla Siria. Quindi c'è un fronte anche lì e poi anche all'interno dell'Unione Europea, sì. Perché la stessa Unione Europea, come al solito, Germania, divisa. È un po' divisa, sì. La Germania e la Francia, qui ci sarà un appuntamento il 1 dicembre proprio in sede di Unione Europea per capire quali sanzioni nuove applicare all'Iran. Certamente sarà più difficile, per esempio, applicare certe sanzioni all'Iran piuttosto che alla Siria. La Siria si è deciso di non portare più il petrolio, lo potrebbero fare contro l'Iran? Questa è una domanda. Vederlo. Glielo chiedo, ambasciatore Pazner, in 20 secondi però, se mi consente, che devo chiudere. Si possono e si devono fare affari economici con l'Iran? Credo di no, credo che è profondamente immorale di fare degli affari con un paese che dice voler distruggere un altro paese nel Medio Oriente e credo che è un esempio cattivo che una impresa italiana importante dichiara voler fare dei affari con un regime islamista, fondamentalista, estremista che pone un pericolo su vicini a Israele. Staremo intanto a vedere che cosa succede ovviamente negli sviluppi successivi dei prossimi mesi. Ringrazio l'ambasciatore Avi Pazner, ex ambasciatore in Italia dello Stato di Israele e portavoce del governo israeliano, come il nostro Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Grazie per essere stati con noi. Saluto tutti, vi ricordo di andare sulla nostra pagina Facebook 24 Mattino e allora la linea va a Oscar Giannino, noi ci troviamo domattina alle 7:20.